Esta tampoco está mal. Adesso ormai mi puoi provare, che ama mi tormento mai, che assaggisse. Caramelle non ne voglio più, però se violini questa sera ricontano un'altra, violine rose lo voglio sentire. Cosa mi va se mi va, quando il momento e dopo si vedrà. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Cosa sei, che cosa sei, cosa sei, non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai, nessuno più mi può. Passione vai, che vinto mai. Caramelle non ne voglio più, la luna di grilli questa sera mi stendo una spella, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che adesso mi prego non sei, chi parla meno, ma può piacere a me. Gracias.